Italia in controluce. Oggi è il 17 gennaio della seconda edizione di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, la politica locale, i casi di Nera, giudiziaria, ma anche il costume, lo spettacolo e la cultura. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La prima traccia riguarda un viaggio di Radio 24 tra i comuni veneti e il loro malessere. Da Vicenza, Paolo Usinabia. L'avevano preannunciato e l'hanno fatto. Mercoledì scorso 12 sindaci veneti hanno tenuto chiuso il loro municipio per protesta. Un fatto senza precedenti in Veneto, che è sintomo di un malumore diffuso fra i primi cittadini di ogni estrazione politica, stretti fra i tagli dei trasferimenti, i paletti imposti dal patto di stabilità e un federalismo fiscale che tarda a venire. Questi comuni, in base ai dati diffusi dall'IFEL, Istituto per la Finanza e l'Economia, pubblicati dal Sole 24 Ore qualche giorno fa, sono fra i primi 20 più tartassati in Italia dall'ultima manovra finanziaria. Secondo i calcoli condotti dai tecnici dell'IFEL, la manovra da poco approvata dal governo si traduce sui conti di 2.300 comuni soggetti al patto di stabilità in una richiesta ai municipi di 1,5 miliardi di euro per il prossimo anno e di 2,5 miliardi dal 2012, tagliando in via preventiva i trasferimenti statali. In questa speciale classifica, fra i primi 20, appunto, 12 sono veneti. Si tratta del veronese Vigasi o dei trevigiani Ponzano Veneto, Maserada sul Piave, Giavera del Montello, Casale sul Sile, dei vicentini Isola Vicentina, Rossano Veneto, Sant'Orso, dei padovani Fontaniva, San Martino di Lupari, Casal Serugo e Loreggia. Nel giorno della protesta, gli amministratori di questi comuni si sono incontrati proprio a Loreggia, 7.000 anime nell'Alta Padovana, che detiene il triste primato di questa classifica. È infatti il comune che dovrà versare più soldi, dovrà ridurre le sue spese del 60,3%, con una sforbiciata di 362 euro per ciascun cittadino. Maria Grazia Peron, sindaco di Loreggia. Quanto deve pagare? 1.400.000 euro di saldo positivo da raggiungere per il 2011, proprio per questo calcolo del patto di stabilità che prende come anno di riferimento l'anno 2007, che è l'anno in cui il Comune ha sostenuto un investimento straordinario che è l'acquisto della rete del gas, peraltro imposto dalla legge questo acquisto, perché il decreto Letta, che è un decreto del 2000, ci imponeva che a concessione scaduta i comuni dovessero rientrare in proprietà della rete del gas. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo acquistato la rete, abbiamo fatto un'operazione che porta un utile netto per 12 anni al comune di 310.000 euro, ma questa operazione 4 anni dopo diventa la nostra croce. Non sta meglio Rossano Veneto, 8.000 abitanti nella zona del Bassanese in provincia di Vicenza, definito da Gian Antonio Stella nel suo libro Skei, il modello del modello Veneto, un paese che emergeva non solo come il polo mondiale dei produttori di selle per biciclette, ma in generale come un comune dove l'imprenditorialità era esplosa a tassi record, 900 aziende e 7.900 abitanti, ma che ora rischia di vedere i servizi ai propri cittadini dimezzati se non azzerati. Il sindaco Gilberto Trevisan. Il mio comune riceve oltre 160.000 euro in meno di trasferimenti e ci pongono un obiettivo di miglioramento di oltre 1 milione di euro, cosa impossibile. Ecco, come pensate di far fronte a questa spesa? Come pensiamo di far fronte a questa spesa? Spero che questa azione ci dia una mano a cambiare qualche regola in gioco, perché in queste condizioni ci vuol dire non riuscire a far fronte a questa spesa. Isola Vicentina è invece colpevole di aver costruito una parte delle scuole medie e completato la biblioteca nel 2007, spese programmate da tempo e finite sotto la mannaia del patto di stabilità. Il sindaco De Franceschi parla di una stortura inammissibile. La manovra viene calcolata retroattivamente sul 2007, quando molte municipalità italiane avevano sforato il patto per effettuare una serie di investimenti di base. In sostanza, quando non c'erano i paletti del patto stesso, gli investimenti erano non solo permessi ma incentivati. La manovra rischia di bloccare, oltre ai servizi ai cittadini, anche un sostegno diretto alle imprese locali. L'incontro di Loreggia è stato coordinato dall'ANCI del Veneto. Il presidente Giorgio Dal Negro, nell'intervenire, è sembrato cautamente ottimista. Questo disguido, infatti, colpisce molti comuni, ma in maniera così pesante solo un gruppo di comuni veneti e prevalentemente del nord Italia. Non sarà impossibile, dice quindi Dal Negro, intervenire ad hoc con il decreto mille proroghe e per questo sarà costante il pressing sul governo e sul sottosegretario veneto all'economia e alle finanze Alberto Giorgetti. Diego Marchioro, sindaco di Torri di Quartesolo e presidente della Consulta Finanza di ANCI Veneto. C'è il problema di questi 12 comuni, forse sarà il problema anche di qualche altro, perché abbiamo visto che qualcuno si sta aggiungendo alla lista dei penalizzati in maniera impossibile sostenere. Siamo qui anche per dire che Globalmente il patto di stabilità, le restrizioni nei bilanci dei comuni sono state concentrate sui comuni che già ricevevano meno. E se non si cambia, i sindaci sono decisi a portare avanti la protesta. La chiusura dei municipi potrebbe essere definitiva, come dice Piero Menegozzo, sindaco di Sant'Orso nel Vicentino, che dovrà rifondere a Roma 1.260.000 euro. È una protesta, ma anche un elemento sostanziale, nel senso che è l'inizio di una situazione che, se non ci saranno cambiamenti, si protrarrà per tutto l'anno. Italia in controluce. La seconda traccia riguarda la memoria di un coraggioso imprenditore di Palermo, Libero Grassi, che ebbe il coraggio di denunciare la banda di criminali che gli chiedeva denaro in cambio di protezione. Grassi alla fine venne ucciso, ma le sue idee oggi restano certamente applicate da associazioni di imprenditori. Monica Cerabola. Caro estorsore, volevo avvertire il nostro ignoto estorsore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani. Lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile. Saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al geometra Anzalone e diremo no a tutti quelli come lui. Questa lettera veniva pubblicata nel mese di gennaio 1991 sulla prima pagina del Giornale di Sicilia. L'aveva scritta un imprenditore palermitano, Libero Grassi, per fare capire chiara quale fosse la propria posizione. Era un periodo in cui in Sicilia morti ammazzati di mafia si contavano a decine, tutti pagavano il pizzo. Quello di Libero Grassi era il primo atto pubblico di denuncia, avrebbe dovuto provocare un putiferio. E invece ci fu solo silenzio, come ricorda Pina Maesano Grassi, la vedova dell'imprenditore che, firmando quella lettera, aveva firmato la propria condanna a morte, ma ancora non lo sapeva. Le istituzioni non si sono fatte vive. C'è questa presa di posizione di un giudice che diceva che se tutti facessero così l'economia siciliana andrebbe a rotoli. Il Libero si era rivolto all'associazione degli industriali e l'allora presidente, che si chiamava Cozzo, Salvatore Cozzo, gli disse che a lui non risultava che a Palermo gli imprenditori pagassero il pizzo e che il Libero lo faceva per fare una tammuriata, cioè per farsi pubblicità. E anche il Libero capì che era solo. Adesso per esempio abbiamo Ivan Lobello, che gli imprenditori che pagano il pizzo non possono iscriversi all'associazione degli industriali. Erano anni pericolosi quelli. Totorina metteva in atto la strategia del terrore. Da lì a poco sarebbero stati fatti saltare in aria Falcone e Borsellino. La penna, si sa, uccide più della spada, e l'affronto di Libero Grassi non poteva non trovare una reazione, che arrivò. Arrivò qualche mese dopo, era il 29 agosto di quel 1991. Erano le 7:30 e Libero Grassi era appena uscito da casa. Stavo andando in azienda, perché poi dopo avrebbero ripreso, essendo fine agosto, sono state le ferie, avrebbero ripreso l'attività normale, diciamo, dell'azienda. E invece è stato bloccato da queste 5 rivoltellate. Adesso è diverso, ci sono i ragazzi di Addio Pizzo che fanno quadrato attorno a chi denuncia, ci sono molti imprenditori che vanno in tribunale e puntano il dito contro gli estorsori, ci sono i magistrati che fanno le indagini, la società civile che si indigna, il clima è cambiato, o forse no, perché esattamente 20 anni dopo la vedova di Libero Grassi ha deciso di ripubblicare la lettera al caro estorsore. E questa volta qual è stata la reazione? Qua a Palermo, diciamo, non c'è stata. Io non ho avuto una telefonata dal sindaco, non ho avuto una telefonata dal prefetto, non ho avuto una telefonata dal questore. La conclusione è quasi gattopardesca. A volte occorre che cambi tutto perché non cambi niente. Seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. Sul nostro sito radio24.it potete scaricare tutte le puntate andate in onda ormai da un anno a questa parte. Domani compie Italia in Controluce un anno di emissione. Per comunicare con noi, il blog di questo programma, sempre su radio24.it, poi su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it, Twitter in Controluce. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.